L'amore, come la malattia, ci rende inermi e anonimi. Fidarsi di un dorso glabro che barcollante, anche in quel giorno non abbordò la morsa, non deve, non posso, per sopportare ancora la libertà di un cuore empio che seppur tracolla, nel buio brancolando ancora ebbro, pulserebbe. Eppure tutto dondolava quiescente in un mare di terra scossa, coi suoi colori che sbiadiranno già così come li vidi in un tempo di sonno desto da cocainomani, impennato lui da trigliceridi, lei in vero amaro di scorza acerata, indigente e gentilizia a un tempo, il nostro connubio tremulo, annullo, un null'altro che basculante, subaffitto, con sabbatica pazienza. Inevitabile sì che si strappino i dorsali a furia di crinali e dossi. E finalmente subisce un distacco per SMS, molto sommessamente l'occhio bello. Ma tu non ci guardare nel mentre in mille accattoni di rimpianto rifluiamo in un addio molto civile.